La versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, e questo lunedì 9 ottobre sono le 16:07 primi 53 secondi. Vi dico subito di che cosa parliamo oggi. Stiamo sulla stretta attualità, e non solo per la stretta attualità, ma perché stiamo parlando di una vicenda che arriva a un nuovo colo di bottiglia e riguarda il primo sito siderurgico non so italiano, ma qui stiamo parlando di un rilievo continentale, cioè quello di Taranto, della vicenda dell'Ilva. Vi ricordate, ma comunque se no ve lo rinfresco e ne riparleremo nel corso della trasmissione, stiamo parlando di un sito che dal 2012 ha conosciuto una vicenda senza precedenti nel mondo avanzato di indagine giudiziaria, che ha portato prima al sequestro dell'azienda, delle sue lavorazioni, degli input, dell'output, del patrimonio, della sua continuità aziendale, fino a interromperla, poi a un commissariamento, giudiziale, che è arrivato poi alla gara, dopo 5 anni, alla gara con l'assegnazione della proprietà dell'impianto. E il nodo adesso che si pone è che, rese note le volontà della cordata che si era aggiudicata la gara, e quindi l'azienda, è immediato scontro. Questa mattina ha preso nel fine settimana quelle che erano i dettagli delle disponibilità della compagnia formata da ArcelorMittal in maniera preminente e dal gruppo Marcegaglia italiano, rilevare una pianta organica su un totale di 14.000 rotti dipendenti del gruppo, più o meno di 10.000, quindi con oltre 4.000 esuberi. Di fronte a questi 4.000 esuberi e di fronte alla discontinuità di contratto, cioè prevedere non la continuità dei vecchi contratti, con annessa ovviamente garanzia dell'articolo 18 pre-riforma del Jobs Act, ma la discontinuità e quindi la riassunzione con contratti a tutele crescenti, e poi terzo punto rilevante anche quella retributiva degli inquadramenti, anche in questo caso con una discontinuità e quindi ripartendo dal basso, esplode l'immediata polemica di tutti i sindacati, che invitano allo sciopero oggi. Oggi doveva esserci un incontro, e c'è stato, ma è stato brevissimo, tra il governo e le rappresentanze della società della cordata. Il governo ha comunicato loro, per noi è una proposta irricevibile, sia per la quantità di chi lasciate fuori, sia per le condizioni contrattuali, e quindi tornate a vedervi con le parti sociali e se ne parlerà. Questo la sintesi dell'incontro con il ministro Calenda e con Bellanova. La vicenda è una vicenda fondamentale, paradigmatica, non solo delle anomalie italiane, io l'ho sempre considerata così, ho scritto molte volte in questi anni su tutto ciò che non mi ha convinto, anche se appartiene al passato, è inutile fare polemica sul passato, su questa incredibile vicenda giudiziaria. Esistono impianti analoghi in Europa? Sì, esistono, in nessun altro paese avanzato per questioni ambientali si è arrivato al blocco e in buona sostanza al fermo per anni di una lavorazione che è quella a ciclo continuo in alto forno, che una volta che si blocca, come ovvio, si altera in maniera irreparabile. Non ho mai immaginato, mai, l'ho sempre scritto, che si sarebbe, quando si fosse ripartito con questo esproprio senza indennizzo alla famiglia Riva, stiamo parlando di un gruppo che era il quarto, quasi il terzo è stato per un anno in Europa, il 23° nel mondo, ecco, per capirci, non ho mai immaginato che si potesse ripartire da capo, perché le vicende della tutela ambientale, dai parchi minerari all'aperto realizzati dalla mano pubblica, ricordiamo, se ve lo fosse dimenticato, che questo è un grande impianto che nasce nei decenni per volontà e strategia in quel modo della mano pubblica. Detto tutto questo, non avrei mai immaginato che si poteva ricominciare come prima, quindi per me è un'illusione. Ma detto tutto questo, non è che con le illusioni si può dire adesso andate a casa, bisogna verificare quali sono le condizioni. Io vi dico solo che sullo sfondo ovviamente ci siamo inflitti un danno nazionale enorme. Noi eravamo nel 2011 arrivati a sfiorare 29 milioni di tonnellate l'anno di produzione di acciaio greggio, siamo scesi per effetto in buona sostanza della vicenda Ilva, poi della crisi di Piombino. Noi avevamo 3 siti di alto forno in Italia, uno è Taranto, l'altro è Trieste, l'altro è Piombino. A Taranto abbiamo fatto quello che abbiamo fatto con la vicenda giudiziale, a Piombino ha altra incredibile prova per me, incomprensibile, di come il pubblico abbia potuto affidarsi alla cordata algerina a cui sono oggi nelle condizioni, dopo che tutti gli esperti del settore e tutta la stampa specializzata gli ha detto: ma come fate a credere alla cordata algerina? Siamo in condizioni di dover tornare indietro. E anche lì passa il tempo e i danni restano anche nel sito di Piombino. Ma detto tutto questo, adesso si tratta di verificare, ora che l'Italia è, nel 2016 è tornata verso a superare i 23 milioni di tonnellate, a battersi perché il meglio sia possibile nelle condizioni attuali. Certo, le basi di partenza sono molto complicate. Allora, per parlarne, al di là delle mie opinioni che valgono zero, uno dei giornalisti che con maggior puntualità, precisione e competenza del settore ha seguito in tutti questi anni sul Sole 24 Ore e non solo, ma anche su riviste come Il Mulino, la vicenda dell'Ilva di Taranto, Paolo Bricco, grazie di essere con noi in studio. Buongiorno Oscar e buongiorno a tutti i radioascoltatori. E fresco dell'incontro stamattina e protagonista dall'indomani della vicenda del sequestro giudiziale, perché era lì a metterci la faccia insieme ai due altri due segretari nazionali dei meccanici della UIL e della CGIL, a metterci la faccia di fronte alle migliaia di dipendenti, di lavoratori di Taranto che erano senza parole e terrorizzati, Marco Bentivoglio, il segretario della FIMCISL. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Ecco, non freschissimo, ma buon pomeriggio a tutti. Freschissimo no, immagino. Allora, io iniziamo con abbeverandoci da chi forse ne sa più di noi giornalisti. Come stanno le cose? Perché da dietro le porte la cordata dice: noi veramente avevamo già fatto uno sforzo per arrivare a 10.000 da poco più di 8.000, perché quello era ciò che prevedeva il nostro piano. Dopodiché avevamo detto un costo del lavoro che era parametrato sugli 8.000, ma se ci si chiede di alzarlo ancora, avendo alzato 10.000, noi non ce la facciamo. Ma in realtà le cose come stanno, Bentivoglio? E soprattutto, oltre ai numeri, e il piano industriale c'è, è credibile secondo voi? Ma infatti la cosa importante è tenere il confronto accanto ai numeri anche su quello che è il cuore del piano industriale, cioè a prescindere da tutto il ripiegamento che c'è stato nella produzione dell'acciaio, bisogna vedere se lo smontiamo rilanciando un siderurgico ecosostenibile ma in grado di affrontare tutte le battaglie di competitività, e su questo ci sono molti dubbi. Noi abbiamo sollevato alcune questioni di merito relativo al piano presentato dalla cordata che ha vinto AM Invesco, sostanzialmente ArcelorMittal, proprio rispetto al cuore di questo piano. Quello che ha fatto saltare tutti i nervi e non solo, e anche molta delusione, è stato l'articolo 47 del codice civile previsto, della legge che disciplina di fatto i trasferimenti e le cessioni di azienda, in cui a fronte di un accordo che il governo attraverso la gestione commissariale aveva fatto con ArcelorMittal, sostanzialmente nell'articolo 47 ci si rispiega che la trattativa invece riparte da zero. Capite bene che l'avvertenza Ilva è una vertenza che ha polarizzato in modo stagionale, per la verità, ma le più grosse fibrillazioni di tutto il paese. E allora anche una trattativa che inizia non sotto i migliori auspici e con ipoteche grandissime, cioè, se il governo fa un accordo che prevede che si parta a condizioni contrattuali invariate, quale motivo ha spinto ArcelorMittal di scrivere nell'articolo 47 che i rapporti di lavoro ripartono da zero? E così via. Allora, tutte queste cose non so come riguardano la vita delle persone, ma in tutti i sensi, anche perché c'era, ricordo a tutti io che appunto, come giustamente si ricordava, sono sempre stato lì accanto ai lavoratori. C'è stato un pezzo di paese che diceva: l'acciaio si può pure smettere di produrre, nelle bonifiche occuperemo quelli che sono occupati più altrettanti. Allora capite che abbiamo avuto anche un pregresso di errori, di sottovalutazioni. Io ricordo a tutti che il sottoscritto è stato da solo a spiegare ormai tre Natali fa, quando anche il governo di allora, Renzi, spiegava che forse una nazionalizzazione temporanea, suggerito maldestramente da Guerra a Palazzo Chigi, forse si poteva pure tollerare. E io da solo spiegai che era la strada sbagliata, oltre che non praticabile, anche in queste ore chi dice facciamo come Macron rispetto alla cantieristica francese, si scorda di conoscere la normativa europea che impedisce sull'acciaio una partecipazione pubblica simile a quella dell'esercizio che il governo francese in condizioni paritetiche può vantare nella cantieristica navale. Allora, questa vicenda dimostra, c'è un bellissimo articolo di Francesco Cancellato su questo, sull'inchiesta. Infatti più tardi c'è con lui anche. Ecco, Francesco giustamente dice qui è stata una partita che ha visto la politica distante e inadeguata, ma io non devo dire solo di Ilva, la vicenda Fiat, la vicenda Fincantieri, noi abbiamo una classe politica industriale, oggi ereditiamo errori su errori, sottovalutazione, tempo perso, ed è chiaro che si riparte da dietro. Oggi Ilva produce meno la metà della sua capacità produttiva. Esatto. E questo è un problema serio. Lei ricorda anche che quando da uno dei diversi commissari che sono succeduti, Bondi, si affacciò un'ipotesi di scelta di impostazione della produzione per tutta Taranto alternativa all'alto forno ciclo continuo da carbone, cioè quello da preridotto, esatto. Anche lì a occuparcene tentando di scendere davvero nel concreto che cosa questo avrebbe potuto significare, dove diavolo ci si poteva poi procurare e a che costo e chi lo avrebbe potuto fare altrove buona parte del minerale necessario per quella lavorazione e così via eccetera eccetera, eravamo in realtà quattro gatti, cioè io uno dei quali, voglio dirlo per correttezza perché gliene do atto anche se la pensiamo diversamente, però è stato l'ex vice direttore del Corriere della Sera, che naturalmente è il presidente della commissione industria alla Camera, Mucchetti, ma per il resto la politica sembrava che la cosa non lo riguardasse minimamente. Appunto. Ma il tema è appunto questo qui, su tutta questa vicenda è un'occasione un po' per campagne elettorali, per uno scontro, per talk show, ma per una consapevolezza che è citato, che si spiegava all'inizio del fatto che è ripartita la domanda d'acciaio, bisogna completarlo dicendo che la domanda d'acciaio nel nostro paese sta crescendo, viva Dio, perché sono ripartiti i settori consumatori, certo. Ma sono ripartite le importazioni grazie non alla globalizzazione, grazie al fatto che siamo assolutamente masochisti nel farci. Noi abbiamo dato un contributo spontaneo al problema della soluzione della sovraccapacità europea produttiva. Cioè abbiamo reso felici i nostri concorrenti, per così. Esattamente, così è. Questo è esattamente quello che è accaduto. Per cui oggi avere una situazione, Bondi, quando fu messo alla porta, dopo che, bisogna dirlo, perché ogni tanto alzano la voce anche loro, aveva ridotto i prezzi dell'acciaio per rilanciare lo stabilimento. E i siderurgici più forti dal punto reagirono. Di vista della loro lobby politica italiana reagirono. Perché i prezzi erano, e bussarono al Presidente del Consiglio dicendogli di farlo fuori. Bondi fu messo alla porta e da lì abbiamo solo fatto passi indietro. Io do un giudizio improprio da impertinente giornalista senza titoli. La mia opinione è che la gestione guerra ha fatto perdere anche a Renzi un anno e mezzo inutilmente. E ripartire da zero post cambiamento con Bondi ci ha fatto perdere un altro bel po' di tempo, come se già non ne avessimo perso abbastanza. È un giudizio brutale, però io non chiedo a lei di condividerlo. Adesso, secondo lei, i tempi e i modi quali saranno? Perché la reazione di ArcelorMittal, ripeto, non è ancora formalizzata, ma da giornalista, da quello che sembra a noi, è addirittura sorpresa, perché dice che la posizione del governo non è coerente con quello che coi commissari l'azienda aveva detto. Voi che dite? Ma allora, un'azienda che fa un accordo e poi riparte da più indietro di un accordo, forse non è abituata alle relazioni industriali moderne. Io non dico quelle del rimpiattino per cui bisogna rilanciare, non c'è mai un terreno di affidabilità reciproca. Eppure sono stati anche in Francia, quindi insomma un po' di contesti regolamentati li conoscono. Esattamente, però in un negoziato, se ogni volta uno riparte da zero, a un certo punto, ecco, non mi sembra il ministro Calenda un estremista. No. Il fatto che la reazione più dura sia stata la sua, dopo che i lavoratori hanno iniziato a scioperare, questo significa, e il rischio grosso è che si porti una vicenda di questo tipo su un terreno di ordine pubblico, perché oggi Taranto e Genova, in particolare, Novi Ligure, ma soprattutto Taranto e Genova si sono scaldate tantissimo come realtà. Sì, per sì. cui cioè, è una situazione in cui sull'ambiente è andata così, sull'occupazione è andata così. Ricordo a tutti che entrambi gli stabilimenti più grandi sono sottoposti a ammortizzatori sociali piuttosto pesanti, che sì. significa che in questi anni hanno avuto riduzioni salariali importanti, e quando è così non è che si sciopera a cuor leggero cioè, perché non è tanto salario, lo si fa proprio perché si vede sfuggire da sottomano il terreno di ciò che dà occupazione. E tra l'altro la ringrazio perché naturalmente, io ho dimenticato di dire nella foga iniziale, oltre che i 7600 dipendenti a cui sarebbe ridotta la forza lavoro siderurgico a Taranto, c'è il problema 900 a Genova, 700 a Novi Ligure, 160 a Milano, 240 in altri siti, quindi è un impatto nazionale, perché questo è un gruppo nazionale e ha sempre avuto una strategicità nazionale. Quindi per il momento vediamo come reagisce la cordata, è così, non sappiamo niente di più a quest'oggi. Marco Bentivoglio. No, è appena uscito un comunicato stampa di ArcelorMittal proprio questo minuto, e in cui cerca di spiegare, di chiarire eccetera, ma è sin troppo generico. Il ministro ha chiesto di verificare con gli azionisti una condizione di partenza del negoziato che non sia così arretrata. Mi sembra il minimo che si possa fare, perché i punti su cui il piano non è fragile sono tanti. Genova, se non ci sono investimenti, altro che il numero di occupazione, esatto. Il problema rischia di essere più grave. Taranto, se non sono chiare le cose che si fanno sui tubifici, per esempio, non sono sui tubifici e su tutte le altre investimenti in tecnologie e in infrastrutture, gli assetti che sono dichiarati sono tutti teorici. Lei lo sa, no? Che se la parte dei tubifici, insomma, l'indiscrezione secondo me è abbastanza fondata dalle verifiche che abbiamo fatto, è che ArcelorMittal dicesse non si può. Sì, però al tavolo il problema è che ci ha detto il contrario. Loro non sono forti appunto sui tubi, vanno forti sui piani e sui coils, e hanno spiegato che invece ci provavano. Il piccolo problema è che Giannino, io rappresento 900 lavoratori solo nei tubifici, capisce? Certo. Che se non ci sono investimenti, se accanto a loro fanno un'equazione piuttosto banale, loro dicono 1000 lavoratori ogni milione di tonnellata d'acciaio più o meno, prodotto, no, intanto la capacità teorica di Taranto massimale è 12 milioni, ma accanto al milione di tonnellate c'è una parte di lavoro che si faceva sui motori e su tante altre cose che si fa a Taranto, e vogliamo capire se rimane un terreno di iniziativa e di investimento. Se torniamo all'indietro, poi no, anche perché poi ricordiamo, naturalmente dobbiamo farlo, ma ricordiamo che oltre alla questione di chi lavora e chi resterà nel gruppo e a fare che, perché io antepongo a fare che, se vogliamo che sia una soluzione che si regge in piedi, e c'è anche il problema delle centinaia di aziende, sono quasi 350 aziende dell'indotto diretto, anche lì sono 7600-8000 lavoratori, cioè non si scherza, insomma, voglio dire. L'indotto di un'azienda siderurgica, soprattutto per come funziona l'Ilva, è indotto funzionale, nel senso che è dentro il ciclo, esatto, di produzione, non sono solo servizi, non è solo la mensa, la vigilanza, l'indotto esterno, è un indotto che in un impianto siderurgico fa funzionare la fabbrica, per cui è assolutamente importante. Però su tutte queste cose bisogna ragionare chiaramente in un confronto che non è avviato, bisogna assolutamente chiarirlo. Cioè, noi, siccome c'è stato un ridimensionamento di tutte le aree a caldo a ciclo integrale in tutta Europa, dei vari grandi gruppi, allora siccome c'è stata, purtroppo in Italia è andata a finire male la vicenda Taranto, ma a parte i disastri che sono stati fatti nell'incapacità di gestire con le tecnologie un migliore impatto ambientale, la scelta dal punto di vista geopolitico-industriale come porta sul Mediterraneo di quella realtà era una scelta che nel piano Sinigaglia negli anni 60, quando la politica aveva un po' di cultura industriale, ero convinto che per questo, invece che sequestrare tutto giudizialmente, bisognasse trasformarlo in un grande banco di prova europeo, proprio perché anche porta al europeo di trasformazione ambientale, così, in continuazione di produzione. Invece. Ma la partita è iniziata così. Quando a Palazzo Chigi ci venne spiegato che, come c'erano le linee di finanziamento della BEI, la Banca Europea degli Investimenti, proprio sulle BAT 2016 cioè se le migliori tecnologie a disposizione nella siderurgia, e che Taranto si garantiva a diventare il miglior impianto ecosostenibile, io ci ho creduto allora, dico la verità, io ci ho creduto. Dice, una volta tanto l'Italia, con un suo gioiello industriale, il primo siderurgico in Europa, si mette alla guida di un processo, esatto, di rigenerazione industriale. E purtroppo dopo è successo di tutto, 12 decreti, l'industrialismo più vecchio, ottocentesco, che considera uno scotto da pagare l'inquinamento, e l'ambientalismo, che con quella parte che considera, possiamo che fare a meno dell'acciaio, esatto, un evento criminoso. Ecco, questo, queste due cose io fino alla noia continuo a ripetere: ma perché se attraversiamo il confine a Linz, esatto, in Austria, esatto, Voestalpine produce 6 milioni di tonnellate a ciclo integrale, in un impianto ecosostenibile? Forse perché anche i cittadini hanno scelto dei politici che conciliano le esigenze e risolvono i problemi, invece che schierarsi un po' di qua o di là. E non scappano di fronte a provvedimenti che magari hanno un fondamento in quello che fanno i magistrati, ma le cui conseguenze economiche, come si vede, sono rivelate incalcolabili, incalcolabili, cari ascoltatori, perché nessuno le ha calcolate. Ultima battuta, noi questo periodo in cui sta andando bene l'auto, se è ripartito il nostro PIL, no? Anche grazie alla ripresa del settore automotive, soprattutto l'acciaio, sapete da dove arriva l'acciaio, appunto, di Melfi, di Pomigliano, eccetera? Arriva dal nord della Germania. Allora, sembra una cosa sensata. Gli errori si pagano, purtroppo. Stabilimenti italiani a secco e importiamo dalla Germania. Gli errori, purtroppo, si pagano. Importiamo anche un bel po' di laminati di zinco, che sono quelli che si utilizzano direttamente, infatti, poi nell'automotive. Certo. Intanto, grazie a Marco Bentivogli per la chiarezza con cui ci ha risposto, e buon lavoro. Paolo Bricco, sorpreso? No, non sono sorpreso, perché se la bomba è esplosa oggi, il campo era stato seminato di mine da molto molto molto tempo. E nel discorso di Marco Bentivogli trovo ci sia una aporia, e l'aporia è che la classe dirigente politica italiana, ma anche la classe dirigente sindacale, sa bene che cosa è scritto in Gazzetta Ufficiale in merito al piano ambientale della nuova Ilva, e quello che è scritto è che il piano ambientale può essere realizzato, andrà realizzato entro il 2023. Come dire, in qualche maniera, come diceva Keynes, sul lungo periodo saremmo tutti morti. Ecco. Un piano ambientale così lungo nel tempo, al di là della effettiva realizzabilità tecnica, impone a qualunque soggetto che acquisisca il controllo, o che abbia acquisito il controllo, o che, se le cose andassero male, in questo caso acquisirà il controllo in futuro, di mantenere i livelli produttivi a 6 milioni di tonnellate all'anno. Quindi di dover fare i conti di finanza d'impresa in maniera molto precisa sul costo del lavoro, perché se no non è possibile mantenere in equilibrio un organismo gigantesco e complesso quale è l'Ilva. In realtà non ha mai raggiunto i 12 milioni di tonnellate, cioè il doppio di quello a cui al massimo può andare da qui al 2023 la nuova Ilva. Nel periodo aureo era intorno ai 10 milioni, però voglio dire, era un'altra dimensione. Però è questo conto sui 6 milioni che spiega con ogni probabilità, non possiamo saperlo, esattamente la posizione di ArcelorMittal. Esattamente, cioè il fatto che con 8.500 addetti loro pensavano di riuscire a mantenere gli istituti previdenziali, le posizioni contrattuali, le funzioni che prima ciascuno dei lavoratori dell'Ilva aveva nella vecchia Ilva. Nel momento in cui si è creato la condizione di un rilancio, è salita la pressione, giustamente, da parte della politica e delle comunità locali e dei sindacati, perché ci fosse la possibilità di far entrare altre 1.500 persone, quindi tenendone fuori solo 4.000 e non 6.500, come era inizialmente, a quel punto l'equazione è cambiata, e cambiando l'equazione in qualche maniera il ArcelorMittal e Marcegaglia si è potuto appellare a un'altra cosa che la classe politica sindacale e la classe politica parlamentare italiana sa, cioè che nel bando di vendita nel bando di aste poi di vendita della nuova Ilva c'è scritto che le assunzioni avverranno del personale in discontinuità. E quindi in qualche maniera si sono creati le precondizioni giuridiche. Qui è un po' la politica che gioca, diciamo, esatto, truccando le carte. Gioca nel bando sull'ambiguità, era scritto così. Esatto, gioca il gioco sull'ambiguità lessicale, in qualche maniera ha creato le condizioni per cui oggi si è arrivati a questo. Che è un dunque assolutamente problematico e pericoloso. È molto pericoloso, perché qui si corre il rischio di azzerare di nuovo, ecco, e quindi a quel punto secondo me poi il sito va dove deve andare, cioè ancora più giù. Ma detto tutto questo, adesso noi abbiamo le informazioni sulla borsa, la pubblicità e poi torniamo, e ci raggiunge anche il direttore dell'inchiesta Francesco Cancellato. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar. Allora, nel frattempo il comunicato, stiamo parlando degli sviluppi non proprio felici del gruppo Ilva, del governo che ha detto ArcelorMittal e Marcegaglia: tornate indietro, rivedete i presupposti, perché quello che avete annunciato per quelli che volete lasciare a casa, le condizioni contrattuali e quanto le pagate non vanno bene, quindi si ricomincia da capo. Il comunicato a cui faceva riferimento, stava uscendo mentre parlava il segretario della Fincist Marco Bentivoglio, che è stato con noi e ci ha lasciato, recita: il raggiungimento di un accordo con i sindacati di Ilva in un tempo ragionevole è importante, dice ArcelorMittal, affinché una volta chiusa la transazione possiamo iniziare a mettere in atto i nostri piani di investimento. Gli investimenti che ci siamo impegnati a fare sono cruciali per migliorare la competitività, di conseguenza è vitale che l'implementazione del nostro piano non venga ritardato, aggiunge la società, che come vedete nella dichiarazione formale si guarda bene dal usare toni conflittuali. Però la presa di posizione del governo è stata durissima e avete sentito Marco Bentivogli essere altrettanto chiaro. Francesco Cancellato, direttore dell'inchiesta, stamattina ha scritto un corsivo tonitruante dicendo, a cominciare dalla sinistra, ma insomma la politica in generale, a furia di fottersene di vicende di questa importanza, ecco ciò che raccoglie Francesco. Sì, mi pare sintomatico che di questione di Ilva, intanto buongiorno a tutti, ne parli in trasmissione un liberale come te, un sindacalista di quelli poco catodici e molto nelle fabbriche come Marco Bentivogli, e molto poco la sinistra italiana. Io stamattina ho fatto degli esempi, ho provato a raccogliere tweet, dichiarazioni, agenzie di tutti i politici che in questi giorni vanno dicendo che insomma il PD si è spostato a destra, che ci vuole una nuova sinistra, che ci vuole un Corbyn o un Sanders italiano. Era il loro momento questo weekend. Ah, sì. Era il loro momento. Io fossi stato in loro, ma anche il bel weekend forse non ha giovato, ma magari sì, perché si andava a Taranto, che c'è un bel sole, avrei preso il treno, sarei andato a Taranto a sentire questi lavoratori, a parlare con loro, a cercare di capire. Ecco, stamattina ai cancelli dell'Ilva di Taranto c'era noi con Salvini. Io posso azzardare un'ipotesi, poi se voglio sapere anche Paolo Bricco, che è qui in studio, come la pensa. Io penso che molti di loro, che non sono inconsapevoli, tutti i leader, cioè non, parliamoci chiaro, non è che gente come Bersani non sappia cos'è e quanto ha pesato e quanto pesa ancora la piaga aperta e quanto peserà ancora peggio se finisce ancora peggio la piaga ulteriormente in cancrena dell'Ilva e di Taranto, non l'economia italiana. Però il problema è che temo che temano a loro volta la reazione se vanno sì tra i lavoratori. Questo è quello che penso io. Paolo, tu che dici? Concordo. Sì. Questo è il punto. Temono la reazione per la loro distanza sostanziale dal mondo delle fabbriche. Temono la reazione per il loro, come dire, essere una elite in qualche maniera non particolarmente nobile e nobilitata dal periodo storico che stiamo vivendo, e io questa reazione l'ho vista perché all'indomani del blocco dei sequestri degli impianti del primo, dell'ondata di arresti, vi fu una manifestazione a Taranto, uno sciopero generale a cui parteciparono i leader sindacali, e io ricordo bene la rabbia di moltissimi tarantini, moltissimi operai, moltissimi tecnici nei confronti dei sindacalisti, diciamo dei maggiorenti del sindacato che erano presenti e almeno ci misero la faccia, e nei confronti dei maggiorenti della politica italiana che invece non vi furono. Ecco, da questo punto di vista, mentre tu, Oscar e Cancellato, stavate parlando, mi è venuto in mente un altro episodio sintomatico. Io fui inviato dal Sole 24 Ore a Pomigliano a seguire il referendum di Fiat. E ricordo lo stupore, io mi aspettavo di vedere leader della sinistra politica in particolare quel giorno ai cancelli, e non vi fu nessuno. Ricordo che l'unico esponente della sinistra culturale politica italiana presente ai cancelli di Mirafiori, di Pomigliano d'Arco, qualunque cosa si possa pensare di quel referendum, comunque è stato un passaggio epocale, certo, era Zoro, il simpatico conduttore televisivo. Esatto, che ha migrato rete quest'anno. Che però, insomma, non esattamente. Però non c'era nessuno della sinistra italiana. Teniamo conto, tanto per metterci nei panni delle migliaia di lavoratori a Taranto, ma dell'intero gruppo, perché abbiamo ricordato Genova, Novi Ligure e così via. Per esempio, ma a Taranto la politica, un anno dopo l'esplosione nel 2012 della vicenda giudiziaria, quando già si capiva che si stava andando al blocco totale, la politica inflisse a Taranto un referendum in cui si chiedeva di votare sulla chiusura dello stabilimento, e infatti partecipò solo il 19% degli elettori della città e meno del 10% degli abitanti del quartiere Tamburi, che, per chi ha presente come l'impianto, è esattamente quello su cui c'è il primo impatto e su cui insiste l'area più problematica dell'impianto Cancellato. E da allora, io non so come la pensi tu, ma io, di grande partecipazione politica alle diverse ipotesi, prima ricordavamo le ipotesi del predotto e così via, io non l'ho vista più. Cioè, il commissariamento è stato un grande scudo pilatesco per la politica. Ma se ne occupano i commissari, com'è possibile? Oscar, però a questo punto è nudo, nel senso che tutte le chiacchiere sulla delegittimazione della politica, sull'emergere dei populismi, sulla destra che recupera il voto degli operai, sulla creazione di capri espiatori perché la politica non è capace di prendere decisioni e delega di volta in volta ai tecnici o alla società civile, qui hanno una rappresentazione plastica, cioè è la favoletta che possiamo raccontare di notte ai nostalgici dei fazzoletti e delle bandiere rosse, perché questo è successo che la politica di sinistra, e sono perfettamente d'accordo con voi, chi va lì si prende gli insulti e rischia di peggio. La sinistra politica ha completamente mancato l'occasione di decidere qualcosa in un senso o nell'altro. E hai ragione tu a parlare di atteggiamento pilatesco. Tu li dovevi scegliere in qualche modo che cosa fare di quel territorio. Ma con cognizione di causa, sapendo che c'è in atto un enorme consolidamento mondiale del settore, c'è una sovraccapacità che non solo è europea, cioè vecchi paesi industriali, ma c'è una sovraccapacità in Asia cinese sul proprio mercato interno, tant'è che il prezzo e i futures dell'acciaio sono tutti determinati settimana per settimana dalle stime dell'andamento domestico dell'economia cinese. Allora, una classe dirigente che abbia la minima idea di cosa cazzo è il fondamento di un paese manifatturiero che esporta, secondo loro, deve passare il proprio tempo a guardare questi numeri invece che a parlare del Rosatellum. Porca di una pupazza, il Rosatellum va bene, ma se ci dimentichiamo per anni di queste robe qua, poi non ci lamentiamo che abbiamo 2 milioni di aspiranti bidelli. Porca miseria, lo dico con stima per i bidelli, ma a me è una cosa che mi ha devastato in questo fine settimana leggere che per 2 milioni di giovani italiani l'unica cosa che riescono a intravedere in questo paese di disperazione, evidentemente per le loro aspettative, è quella, cioè un posto dignitosissimo, per carità, pubblico, mal pagato. Ecco, però ci uccidiamo da soli in questo modo. La mia non è polemica qualunquista, guardate, io non sto dicendo tutti uguali, mi limito a dire che però in questi anni chi scriveva pochi di questa vicenda dicendo guardate stiamo abbattendoci da soli, facendo un enorme favore ai nostri concorrenti, ha anche gli industriali erano i primi a dire è meglio che smetti di usare questi toni. E io dicevo, perché è meglio che smetto? In cosa vi do fastidio? Devi evitare di sembrare a difesa di una cosa improponibile. L'acciaio è improponibile? Allora è finita, ragazzi, cioè diciamocelo. Vabbè, ci vediamo tra un minuto, nel frattempo abbiamo l'informazione sul traffico. La versione di Oscar. Allora, abbiamo Giovanni che ci chiama da Taranto e direi di ascoltare che cosa pensa di quello che sta accadendo. Giovanni, prego. Buonasera, grazie per l'ospitalità. Sì. È una vergogna, cioè, l'Italia, noi siamo l'Italia. Hanno comprato tempo, non sapendo cosa fare, hanno bruciato 2,8 miliardi di euro, 50 milioni di euro al mese di perdite per la gestione dello stabilimento, e adesso stiamo punto da capo. E il problema è, ad esempio, la copertura dei parchi minerali. Se all'Enel di Brindisi, per coprire una superficie uguale a un sesto, hanno speso 180 milioni di euro, ma chi è sto scemo che spende 1 miliardo di euro per coprire i parchi minerali? Cioè, uno investe capitali per avere una rendita sui capitali, un tornaconto. Poi un'altra questione, cioè vorrei sfatare la questione della magistratura, l'iniziativa della magistratura che ha sequestrato gli impianti. 2 mesi prima dell'azione della procura di Taranto, accade che nel consiglio di amministrazione di Riva S.p.A. il rappresentante della minoranza al 5%, minoranza che è al momento dell'acquisizione dello stabilimento, non firma il verbale d'assemblea. E quindi è lì che scoppia il casino. La magistratura incomincia con la sua iniziativa. Si era ben guardata prima di questo evento di andare a mettere le mani. Giovanni, hai tanto ragione che negli anni precedenti c'erano stati segnali di dubbi sui pareri resi dalle autorità ambientali, quelle della regione e così via, ma però non c'era il fumus, tant'è vero che l'azienda poi dice non ci è stato mai consentito di dimostrare che noi eravamo in regola con quello che ci veniva chiesto, perché poi ricordiamo anche che nei bilanci storici di Riva non c'era solo un'elevatissima redditività del capitale con gli utili realizzati, ma che gli investimenti ambientali c'erano, certo diversi da quelli poi per cui esplode il dramma. Questo è il punto e la fine del gruppo, almeno come presenza diretta lì. Quindi grazie, grazie Giovanni. Che ci aspetta Paolo Brico? La stessa domanda farò dopo di lui a Francesco Cancellato a questo punto. Ma io mi aspetto che in qualche maniera si torni a una condizione di razionalità politica. Non vorrei sembrare cinico, ma credo che a questo punto sia necessario che ArcelorMittal, Marcegaglia e il ministro Calenda e possibilmente anche il premier Gentiloni trovino una rapida occasione per ricominciare a parlarsi. Perché io capisco che la situazione sia stata drammatizzante e drammatizzata, ma credo che sia necessario provare a uscire da questo cul-de-sac. Senza un'uscita da questo cul-de-sac, io temo che le logiche transnazionali, burocratiche, tecnocratiche di un gruppo multinazionale ultrafinanziarizzato presente su diversi mercati come ArcelorMittal possa portare a un sai che c'è, allora chiudiamo qui. Anche perché, ricordiamolo, la condizio sine qua non per l'acquisizione, non solo per la cessione da parte diciamo della mano pubblica ArcelorMittal, ma anche dell'acquisizione da parte di ArcelorMittal dalla mano pubblica e l'ok da parte di questo tavolo con sindacato e con il governo. E soprattutto anche chiarire se quello che c'è scritto nel bando non vale più, perché noi vi abbiamo ricordato che su un punto il bando parlava di discontinuità. Io non sto parlando sul totale dell'organico e sulle condizioni retributive, perché sulla condizione retributiva pesa il fatto di qual è il diciamo lo standard massimo quantitativo che tu puoi piazzare sul mercato, come ha ricordato Paolo Brico, però lì la discontinuità c'era nel bando, perché uno va a verificare e verifica che c'è. Detto tutto questo, invece, uguale domanda per Francesco Cancellato, direttore dell'inchiesta, che ti aspetti? Io mi accodo ai timori di Marco Bentivogli, cioè temo che la cosa possa scappare di mano da un punto di vista sociale, da un punto di vista di disordine sociale sul territorio. Ieri sono già usciti dei comunicati strani su Facebook che parlavano di città barricata, invitavano la gente a comprare generi di prima necessità che non si sarebbe voluto più uscire. Io temo, e mi auguro ovviamente di sbagliarmi, che la tensione sociale repressa per troppo tempo in questo paese possa trovare in questa vicenda uno sfogo abbastanza brutto, soprattutto se, come temo, al pari del collega, che dal punto di vista di ArcelorMittal ci sia il tentativo di tentare il colpo gobbo e di bleffare, oppure addirittura di far saltare la trattativa. Oppure di far saltare la trattativa e sfilarsi. Naturalmente non aiuta, secondo me, ci aggiungo anche la mia preoccupazione, che l'avvicinarsi alle elezioni spinga interpreti politici non solo nazionali, ma sapete, i tetti sono bassi per il proporzionale. Qualcuno localmente i due conti se li fa e sono quelli i primi che si mettono a istigare reazioni, diciamo così, per pescare esattamente su quel bacino di forte, accumulata, fin qui repressa, malcelata, incazzatura, che a questo punto rischia di diventare violenta. Speriamo di no, ma ci sono molte condizioni. Grazie a Paolo Bricco, grazie a Francesco Cancellato, grazie a Marco Bentivogli. Appuntamento con me alle 8:15 mattina con Luca Taleser a Mattino 24 e pomeriggio domani alle 16 sulla versione di Oscar.